ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Eti Illesum. Traduzione di Chiara Passanti. Martedì 25 marzo, le 9 di sera. Siccome sono ancora tanto giovane e ho la volontà indistruttibile di non lasciarmi mettere sotto, e siccome ho la sensazione di poter contribuire anch'io a colmare le lacune recenti e me ne sento la forza, per tutti questi motivi io mi rendo appena conto di quanto poveri siamo diventati noi giovani, quanto siamo rimasti soli. O è ancora una forma di stordimento? Bunger è morto. Ter Braak, Duperron, Marsman, Poss, Berg e molti altri sono in campo di concentramento, eccetera, eccetera. Anche Bunger è indimenticabile per me. Strano come tutto questo mi torni alla mente di colpo, dopo la morte di Van Wyk. Mancavano poche ore alla capitolazione. Ed ecco la figura pesante, goffa, chiaramente riconoscibile di Bunger che se ne andava lungo l'Aischklub, occhiali azzurri su quella testa pesante e originale. Guardava le nuvole che da lontano sovrastavano la città, provenienti dal porto delle petroliere dato alle fiamme. Non dimenticherò mai quella scena, quella figura goffa con la testa di traverso che guardava le nuvole di fumo in lontananza. In uno slancio spontaneo era corsa fuori senza mantello. L'avevo raggiunto e gli avevo detto: «Buongiorno, professor Bunger. Ho pensato molto a lei in questi giorni. L'accompagno un pezzetto». E lui mi aveva guardata di traverso coi suoi occhiali azzurri e non aveva la minima idea di chi potessi essere, malgrado due esami e un anno di lezioni. Ma in quei giorni c'era una familiarità così grande tra le persone che avevo continuato a camminargli accanto. Non ricordo con precisione il nostro dialogo. Era il pomeriggio in cui tutti cercavano di fuggire in Inghilterra. Gli avevo chiesto: «Crede che abbia senso fuggire?» E lui: «La gioventù deve rimanere qui». E io: «Crede che la democrazia finirà per vincere?» E lui: «Vincerà, di certo, ma alcune generazioni ne faranno le spese». E quel feroce Bunger era indifeso come un bambino, era quasi dolce. Io avevo sentito il bisogno irresistibile di mettergli un braccio intorno alla vita e di guidarlo come un bambino. E così, col mio braccio intorno a lui, avevamo camminato lungo il club. Sembrava affranto, era pieno di benevolenza. Tutta la sua passione, la sua virulenza si erano spente. Il cuore mi si gonfia quando penso a com'era quel giorno, il burbero delle nostre lezioni. E poi lo avevo salutato, mi ero piantata davanti a lui e gli avevo preso una mano fra le mie. Lui aveva chinato un po' il capo con tanta gentilezza, mi aveva guardata attraverso gli occhiali azzurri che gli nascondevano gli occhi e mi aveva detto, quasi con comica solennità: «Mi ha fatto piacere». E la prima cosa che avevo sentito la sera dopo, arrivando al corso di Baker, era stata: «Bunger è morto». Io avevo replicato: «Non è possibile, gli ho parlato ieri sera alle 7». E Baker: «Allora lei è stata una delle ultime persone che gli hanno parlato. Alle 8 si era sparato alla testa». E dunque una delle sue ultime parole era stata per una studentessa sconosciuta che lui aveva guardato con benevolenza attraverso un paio di occhiali azzurri. «Mi ha fatto piacere». Bunger non è l'unico. È tutto il mondo che va in pezzi. Ma il mondo continuerà ad andare avanti e per ora andrò avanti anch'io. Restiamo certo un po' impoveriti, ma io mi sento ancora così ricca che questo vuoto non m'è entrato veramente dentro. Però dobbiamo tenerci in contatto col mondo attuale e dobbiamo ritrovarci un posto in questa realtà. Non si può vivere solo con le verità eterne, così rischieremo di fare la politica degli struzzi. Vivere pienamente, verso l'esterno come verso l'interno, non sacrificare nulla della realtà esterna a beneficio di quella interna e viceversa. Considera tutto ciò come un bel compito per te stessa. E ora leggo ancora una stupida novelletta dalla rivista Libelle e poi a dormire. Domani si lavora di nuovo, alla scienza, alla casa e a me stessa. Non si può trascurare nulla e non si può neppure prendersi troppo sul serio. Buonanotte. Venerdì 8 maggio, le 3 di pomeriggio, a letto. Debbo occuparmi di me stessa, niente da fare. Non ho avuto bisogno di questo quaderno per un paio di mesi. La vita dentro di me era così limpida e serena, intensa. Ero in contatto col mondo esterno come con quello interno. La mia vita si arricchiva, la mia personalità si ampliava. A Leid c'era il contatto con gli studenti. Wilm, ahimè, Jan, c'era lo studio, c'era la Bibbia, Jung, e poi di nuovo esse, e sempre ancora esse. Ma ora c'è un ristagno, un'irrequietezza un po' torbida. In fondo non è affatto irrequietezza, mi sento troppo giù per questo. Forse è solo la stanchezza fisica, quella che tutti sentono in questa fredda primavera, a impedire che le cose circostanti trovino risonanza in me. Ma so bene che è il mio rapporto singolare e non esplicito con esse a darmi questi problemi. Devo tener d'occhio ogni passo che faccio. Le 8 di sera. Si cerca sempre una formula liberatoria, un pensiero chiarificatore. Poco fa, durante un giretto in bicicletta nel freddo, ho pensato improvvisamente: forse rendo tutto troppo complicato e interessante e mi rifiuto di guardare i fatti nudi e semplici. Cioè, non sono affatto innamorata di lui e non gli voglio neppure bene. Come persona mi interessa parecchio, a volte mi affascina, mi insegna infinite cose. Da quando lo conosco sto maturando come non avrei mai creduto fosse possibile alla mia età. Non c'è veramente altro. Ma ora salta fuori questo maledetto erotismo, di cui è pieno zeppo anche lui, come lo sono anch'io. E con ciò i nostri corpi sono inevitabilmente attratti l'uno verso l'altro, sebbene nessuno dei due lo voglia, e ce lo siamo già detti chiaramente una volta. C'è stata, per esempio, quella domenica sera, credo che fosse il 21 aprile. Era la prima sera che trascorrevo da lui. Parlavamo, cioè lui parlava della Bibbia, poi lesse qualcosa di Tommaso da Kempis, mentre io gli ero seduta sulle ginocchia. Tutto questo andava ancora bene. Non c'era quasi erotismo, ma tanto calore umano e amichevole. Però più tardi, all'improvviso, il suo corpo si era trovato sul mio. Io ero restata a lungo fra le sue braccia e proprio allora mi ero sentita triste e sola, e ancora più sola quando lui aveva baciato le mie cosce bianche. «Era bello», diceva lui. Io invece ero tornata a casa col cuore di piombo, rattristata e sola. In seguito avevo elaborato delle teorie interessantissime sulla mia solitudine, ma non potrebbe essere più semplicemente che nel profondo di me stessa io non sia in grado di abbandonarmi al contatto fisico con lui. Tanto non gli voglio bene e so che il suo ideale è di rimanere fedele a un'unica donna, si dà il caso che questa donna si trovi a Londra. Ma è il principio che conta. Se io fossi una donna veramente adulta e grande, troncherei ogni rapporto fisico con lui, visto che questo mi rende solo molto infelice. Ma non mi risolvo a rinunciare alle esperienze che potrei ancora avere con lui. Probabilmente ho anche paura di ferire il suo orgoglio virile. Deve pur averlo da qualche parte. Ma la nostra amicizia si porrebbe su un piano molto più alto, io credo, e alla fin fine lui mi sarebbe riconoscente se lo aiutassi a rimanere fedele a quell'unica donna. Io però sono una persona molto arida e meschina. Di tanto in tanto voglio ritornare fra le sue braccia e poi ne vengo fuori tutta triste di nuovo. Probabilmente anche una forma di vanità infantile che ragiona all'incirca così. Tutte quelle ragazze, quelle donne sono pazze di esse, ma io, che lo conosco da meno tempo, sono l'unica a essere così intima con lui. Se questo sentimento fosse vero, sarebbe una gran meschinità. Sto proprio rischiando di rovinare questa amicizia con l'erotismo. Sabato 14 giugno, le 7 di sera. Di nuovo arresti, terrore, campi di concentramento, sequestri di padri, sorelle e fratelli. Ci si interroga sul senso della vita, ci si domanda se essa abbia ancora un senso. Ma per questo bisogna vedersela esclusivamente con se stessi e con Dio. Forse ogni vita ha il proprio senso. Forse ci vuole una vita intera per riuscire a trovarlo. Comunque, io ho smarrito qualsiasi rapporto con la vita e con le cose. Mi sembra che tutto avvenga per caso e che ci si debba staccare interiormente da ognuno e da ogni cosa. Tutto sembra così minaccioso e sinistro e ci si sente anche così impotenti. Sabato mattina, le 12. Non siamo nient'altro che botti vuote in cui si sciacqua la storia del mondo. O tutto è casuale o niente lo è. Se io credessi nella prima affermazione, non potrei vivere. Ma non sono ancora convinta della seconda. Ieri, per un momento, ho pensato che non avrei potuto continuare a vivere, che avevo bisogno d'aiuto. La vita e il dolore avevano perso il loro significato. Avevo la sensazione di sfasciarmi sotto un peso enorme. Ma anche questa volta ho combattuto una battaglia che poi all'improvviso mi ha permesso di andare avanti con maggiore forza. Ho provato a guardare in faccia il dolore dell'umanità, coraggiosamente e onestamente. Ho affrontato questo dolore, o piuttosto lo ha fatto qualcosa in me stessa. Molti interrogativi disperati hanno trovato risposta. L'assurdità completa ha ceduto il posto a un po' più d'ordine e di coerenza. E ora posso andare avanti di nuovo. È stata un'altra breve ma violenta battaglia. Ne sono uscita con un pezzetto di maturità in più. Ho scritto che mi sono confrontata col dolore dell'umanità. Questi paroloni mi fanno ancora paura, ma non è del tutto esatto. Mi sento piuttosto come un piccolo campo di battaglia su cui si combattono i problemi, o almeno alcuni problemi, del nostro tempo. L'unica cosa che si può fare è offrirsi umilmente come campo di battaglia. Quei problemi devono pur trovare ospitalità da qualche parte. Trovare un luogo in cui possano combattere e placarsi. E noi, poveri piccoli uomini, noi dobbiamo aprir loro il nostro spazio interiore senza fuggire. Forse su questo punto io sono davvero molto ospitale. A volte sono come un campo di battaglia insanguinato e poi lo pago con un gran sfinimento e con un forte mal di capo. Ma ora sono semplicemente me stessa. Etty Hillesum, una laboriosa studentessa in una camera ospitale con dei libri e con un vaso di margherite. Scorro di nuovo nel mio stretto alveo e il contatto con umanità, storia universale e dolore si è interrotto un'altra volta. Così deve essere del resto, altrimenti una persona impazzirebbe. Non ci si può sempre perdere nei grandi problemi. Non si può essere sempre come un campo di battaglia. Dobbiamo poter recuperare i nostri stretti confini e continuare dentro di essi, scrupolosamente e coscienziosamente, la nostra vita limitata, mentre quei momenti di contatto quasi impersonale con tutta l'umanità ci rendono ogni volta più maturi e profondi. Forse in futuro saprò esprimermi meglio, o farò dire queste cose a un personaggio di una novella o di un romanzo, ma sarà solo fra molto tempo. Martedì mattina, 17 giugno. Se uno si è rovinato lo stomaco, dovrebbe cominciare una dieta ragionevole invece di prendersela con le leccornie che secondo lui hanno causato la sua indisposizione. Invece di comportarsi come un bambino, dovrebbe preoccuparsi della propria sregolatezza. L'ho imparato oggi su me stessa e ne sono molto contenta. Anche la continua tristezza che mi rodeva in questi ultimi giorni comincia a passare. Mercoledì mattina, 18 giugno, le 9:30. Devo recuperare un'antica saggezza. Chi riposa in se stesso non tiene conto del tempo. Una vera maturazione non può tenere conto del tempo. La sorgente di ogni cosa ha da essere la vita stessa, mai un'altra persona. Molti, invece, soprattutto donne, attingono le proprie forze da altri. È l'uomo la loro sorgente, non la vita. Mi sembra un atteggiamento quanto mai distorto e innaturale. 4 luglio. Sono agitata di una bizzarra, diabolica irrequietezza che potrebbe anche essere produttiva se sapessi che farmene. È un'irrequietezza creativa, non fisica. Neppure una dozzina di appassionate notti d'amore potrebbe placarla. È quasi un'irrequietezza sacra. Mio Dio, prendimi nella tua grande mano e fammi tuo strumento. Fa che io possa scrivere. È stato tutto per colpa di quella Léonie, coi suoi capelli rossi, e di quel filosofico Yop. Esse, con la sua analisi, ha aperto il loro cuore, e tuttavia mi sono resa conto che non si può spiegare l'essere umano con nessuna formula psicologica. Solo l'artista è in grado di rendere ciò che resta di irrazionale nell'uomo. Non so come andrà a finire con questo mio scrivere. Tutto è ancora caotico, non ho abbastanza fiducia in me stessa, o piuttosto non sento veramente la necessità di dire qualcosa. Aspetterò ancora, fin quando tutto verrà fuori spontaneamente, troverà una forma. Prima, però, devo trovare io stessa una forma, la mia forma. A Deventer, dove ancora vivono i miei genitori, le mie giornate erano come grandi pianure illuminate dal sole. Ogni giornata era un tutto ininterrotto. Mi sentivo in contatto con Dio e con tutti gli uomini, probabilmente perché non vedevo quasi nessuno. C'erano campi di grano che non dimenticherò mai e dove mi sarei quasi inginocchiata. C'era Ligsel, coi parasoli colorati, il tetto coperto di canne, i pazienti cavalli, e poi il sole che assorbivo da tutti i pori. Qui, invece, le giornate sono fatte di mille pezzetti, la grande pianura è sparita, e così pure Dio. E se andrà avanti di questo passo, io rimetterò tutto in questione, e questa non è profonda filosofia, ma un segno che non sto bene. E poi c'è quella strana irrequietezza che non so ancora come incanalare. Ma chissà che essa non possa dare buon frutto nel mio lavoro quando saprò governarla. Non ci siamo proprio, mia cara. Devi strappare ancora molto terreno alle onde arrabbiate. Devi mettere ordine nel caos. Mi viene in mente un'osservazione recente di esse. Lei non è affatto così caotica. Lei ha solo il ricordo di quando trovava che essere caotici fosse più geniale che essere più disciplinati. Trovo che lei si concentra sempre molto bene. Lunedì, 4 agosto 1941, 2:30 del pomeriggio. Esse dice che l'amore per tutti gli uomini è superiore all'amore per un uomo solo, perché l'amore per il singolo è una forma di amore di sé. E se un uomo maturo di 55 anni, che ha raggiunto questo stadio di amore per tutti gli uomini dopo aver amato molte persone singole nel corso della sua lunga vita. Io sono una donnetta di 27 anni, anch'io mi porto dentro questo grande amore per tutta l'umanità, eppure mi domando se non continuerò a cercarmi il mio unico uomo. E mi domando fino a che punto questo sia un limite della donna. Fino a che punto, cioè, si tratti di una tradizione di secoli da cui la donna si debba affrancare, oppure di una qualità talmente essenziale che una donna farebbe violenza a se stessa se desse il proprio amore a tutta l'umanità invece che a un unico uomo. Non sono ancora in grado di concepire una sintesi. Forse la mancanza di donne importanti nel campo della scienza e dell'arte si spiega così, col fatto che la donna si cerca sempre un uomo solo, a cui trasmette poi tutta la propria conoscenza, calore, amore, capacità creativa. La donna cerca l'uomo e non l'umanità. Non è proprio così semplice questa questione femminile. A volte, quando vedo per strada una donna bella e ben curata, assolutamente femminile e magari un po' stupida, sono capace di perdere la testa. Allora il mio cervello, le mie lotte, sofferenze mi diventano un peso. Li sento come qualcosa di brutto e di non femminile e vorrei essere solo bella e stupida, una specie di giocattolo desiderato da un uomo. È tipico che io voglia essere sempre desiderata dall'uomo, che la nostra femminilità sia sempre la suprema conferma del nostro essere, mentre è cosa, quanto mai, primitiva. I sentimenti di amicizia, stima, amore per noi donne in quanto persone sono tutte belle cose, ma in fin dei conti non vogliamo forse che l'uomo come tale ci desideri come donne? Non riesco quasi a esprimermi, è una questione infinitamente complicata, ma è essenziale che ne venga a capo. Forse la vera, la sostanziale emancipazione femminile deve ancora cominciare. Non siamo ancora diventate vere persone, siamo donnicciole. Siamo legate e costrette da tradizioni secolari. Dobbiamo ancora nascere come persone. La donna ha questo grande compito davanti a sé. A volte mi sento proprio come una pattumiera. Sono così torbida, piena di vanità, irrisolutezza, senso di inferiorità. Ma in me c'è anche onestà e un desiderio appassionato, quasi elementare, di chiarezza e di armonia tra esterno e interno. A volte vorrei essere nella cella di un convento, con la saggezza di secoli sublimata sugli scaffali lungo i muri e con la vista che spazia su campi di grano. Devono proprio essere campi di grano e devono anche ondeggiare al vento. E lì vorrei sprofondarmi nei secoli e in me stessa, e alla lunga troverai pace e chiarezza. Ma questo non è poi tanto difficile. È qui, ora, in questo luogo e in questo mondo che devo trovare chiarezza e pace e equilibrio. Devo buttarmi e ributtarmi nella realtà. Devo confrontarmi con tutto ciò che incontro sul mio cammino. Devo accogliere e nutrire il mondo esterno col mio mondo interno e viceversa, ma è tutto terribilmente difficile e proprio per questo mi sento così oppressa. Quel pomeriggio nella brughiera, lui con la sua bella testa che guardava lontano, io gli chiesi: a cosa stai pensando adesso? E lui: ai demoni che tormentano l'umanità. Gli avevo appena raccontato di come Klaas avesse quasi ammazzato sua figlia perché non gli aveva portato il veleno. Era seduto sotto quell'albero, coi rami che gli si allargavano sopra. Io gli avevo posato la testa in grembo e poi improvvisamente gli avevo detto, o meglio, mi era scappato di dirgli: adesso vorrei tanto ricevere un bacio non demoniaco. E lui: allora deve venire a prenderselo. Mi ero alzata bruscamente e avrei voluto fare come se non avessi detto niente, Ma eccoci invece sdraiati nella brughiera, bocca a bocca. E poi lui aveva detto: e lei chiama questo non demoniaco? Deventer, venerdì mattina, le 10:15. La prima cosa che ha detto la mamma quando sono scesa era: mi sento proprio male. È strano. Se papà manda il più piccolo sospiro, quasi mi si spezza il cuore. E se la mamma dice con grande pathos: mi sento proprio male, di nuovo non ho chiuso occhio, eccetera, eccetera, non mi commuove affatto. Una volta, quando mi alzavo tardi, ero completamente scoraggiata e pensavo: bene, ormai questo giorno è perso e non faccio più niente. Anche adesso provo un senso di disagio, come se ci fosse qualcosa che non potrò recuperare mai più. Potrei scrivere un trattato di psicologia su questo tema, ma mi sono proposta di non scrivere più su argomenti difficili. Lo farò più tardi, se saranno diventati più facili. Non ho nessuna idea di cosa farò oggi. In questa casa non riesco a lavorare, non ho un angolino mio e non riesco a funzionare. Credo che cercherò di riposare il più possibile. Noiosa, pettegola, non piagnucolare in questo modo. Su, continua pure. Così reagisco dentro di me quando la mamma mi parla. È una persona che ti può cavare il sangue da sotto le unghie. Cerco di essere obiettiva con lei e di volerle anche un po' di bene, ma poi nel mio cuore le dico di nuovo come sei pazza e ridicola. Questo mio atteggiamento è del tutto sbagliato. Qui io non vivo, ma mi lascio vivere. E rimando la mia vera vita a dopo che sarò partita. Mi manca ogni energia per lavorare con intelligenza. È come se in questa casa ogni forza ti venisse risucchiata. Ora sono le 11 e non ho fatto nient'altro che ciondolare su questa fresca panca alla finestra. Davanti a me la colazione è ancora da sparecchiare e la mamma con le sue esclamazioni patetiche a proposito di tessere per il burro, della sua salute, eccetera, eccetera. Eppure non è una donna qualunque. Il tragico è questo, che qui si va sempre a sbattere contro problemi irrisolti e repentini cambiamenti di umore. È una situazione caotica e triste, che si rispecchia nell'andamento disordinato della casa. E la mamma crede di essere una massaia eccellente. Invece distrugge chiunque col suo eterno sfaccendare domestico. La mia testa diventa sempre più pesante, ma tiriamo avanti. In questa casa la vita si rovina per delle sciocchezze, si è distrutti dalle inezie, non si arriva alle cose che contano. Se io rimanessi qui a lungo, cadrei in una sorta di malinconia cronica e non si può far nulla, aiutare o intervenire, è un insieme così squilibrato. La sera in cui avevo raccontato con gran passione di esse e del suo lavoro, avevano reagito in modo delizioso, con entusiasmo, fantasia, senso dell'umorismo. Ero andata a dormire tutta contenta, pensando fra me che erano proprio persone simpatiche. Ma il giorno dopo c'erano solo battute stupide e scetticismo. Allora è come se non avessero più fiducia nell'entusiasmo della sera precedente e così si tira avanti. Bene, Etty, e tu tirati su. Naturalmente il mal di pancia non mi aiuta a sentirmi meglio. Credo che oggi pomeriggio andrò un po' a dormire e poi in biblioteca a studiarmi ancora quel dottor Pfister. Devo pure essere riconoscente per tutto il tempo che ho a disposizione. Adoperalo bene in nome di Dio, stupida che sei. E ora basta con questo chiacchiericcio.